sotto borghi dentro la città. Un suono vibra, arriva fino a Radio One. Alza il volume quando c'è brancato. Chiariti forte, niente programmato. Rock Revolution, la radio trema. La musica rivoluziona il sistema. La radio che suona i successi di un'era. Radio One, Rock Revolution, la città trema. La musica rivoluziona il sistema. La radio che suona i successi di un'era. Rock and roll, Sabu, Rock Revolution. Sgomito, la mia anima trema. Radio One, Rock Revolution. Ben trovati a questa nuova puntata di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio. Io sono Filippo Brancato e questa settimana parleremo di rock inglese. Parleremo di fratelli, avrete intuito, parliamo quest'oggi degli Oasis. Bene, loro sono un gruppo rock inglese formatosi nel 1991 a Manchester e tuttora in attività. Guidato dal chitarrista, vocalist e paroliere Noel Gallagher e dal fratello, vocalist e paroliere Liam Gallagher, quello degli Oasis è uno dei gruppi che hanno avuto maggiore successo e influenza nella società britannica e nel mondo tra quelli nati negli anni 90 nell'ambito appunto del movimento Britpop, fino poi addirittura ad assurgere a vero e proprio fenomeno di costume. La loro musica, a metà tra il rock anni 70 e il rock and roll, ha saputo dare un nuovo significato al termine Britpop, mentre i loro litigi e il loro atteggiamento talvolta bizzoso e rude sono stati oggetto di un'attenzione crescente da parte dei media durante gli anni. I fratelli Gallagher sono gli unici membri della formazione originaria rimasti a far parte della band. Hanno origine a Barnage, da una band formata verso fine degli anni 80 chiamata The Rain, nome tratto da una B-side di un singolo dei Beatles. Inizialmente il gruppo era composto da Paul McCagan, detto Gigsy, al basso da Paul Ortworth, detto Bonnet, e alla chitarra da Tony McCarroll, alla batteria da Chris Hutton al canto. Quando quest'ultimo lasciò la band, Gigsy chiese al suo compagno di scuola Liam Gallagher di rimpiazzarlo. Liam accettò e propose di cambiare il nome del gruppo in Oasis, ispirato da un poster appeso ai muri della sua stanza che riportava la scritta Oasis Leisure Centre in Swindon. La band provava una volta a settimana, ma stentava a decollare. Secondo Liam il problema erano i testi, che venivano scritti da lui e Bonnet e che parevano davvero molto mediocri. Serviva qualcuno capace di scrivere dei bei testi e di lanciare la band. Intanto, il fratello maggiore di Liam, Noel Gallagher, che si trovava negli Stati Uniti dove faceva il roadie per un tour americano degli Spiral Carpets, nel corso di una telefonata a casa scoprì che il fratello minore era intento a suonare in una band. Conoscendo le qualità del fratello, Liam pensò subito a lui come quell'elemento mancante capace di poter portare in alto il gruppo. La passione di Noel infatti era quella di scrivere canzoni. Liam decise quindi di invitarlo ad assistere ad un'esibizione del gruppo ad un nightclub, il Boardwalk di Manchester. Parliamo dell'agosto 1991. Dopo aver visto l'esibizione del fratello, Noel riferì apertamente che la band non gli piaceva affatto e accettò di entrarvi solamente a patto di esserne il leader, l'unico compositore e il chitarrista principale. Beh, erano già delle rock star. Ascoltiamo la prima canzone in playlist quest'oggi degli Oasis, Rock and Roll Star. Rock Revolution Story. Time. Then they said I should be my head. con Noel Gallagher l'approccio musicale degli Oasis si indirizzò verso una maggiore semplicità. Dopo aver trascorso oltre un anno ad esibirsi nei vari locali di Manchester, nel maggio del 1993 la band ebbe finalmente la sua grande occasione. Gli Oasis erano stati invitati da una band chiamata Sister Love a suonare al King's 2 Wah Wah Hut Club di Glasgow in Scozia. Noel e Bonehead raccolsero il denaro necessario, noleggiarono un furgone e partirono insieme agli altri componenti della band per un viaggio di 6 ore. Inizialmente la loro richiesta di ingresso fu respinta poiché non erano previsti scaletta. Il rifiuto avrebbe suscitato ovviamente le ire della band, che si sarebbe fatta largo, diciamo così, con le maniere forti, sebbene poi i componenti del gruppo abbiano fornito versioni contrastanti in merito. Alla fine, in qualche modo, la band riuscì ad ottenere uno spazio per suonare qualche brano. La loro esibizione impressionò molto Alan McGee, quale era lì per assistere alla performance di un'altra band. A fine serata McGee si avvicinò al gruppo per chieder loro se poteva avere una demo con qualche loro canzone. Qualche giorno dopo ovviamente Noel lo accontentò consegnandogli una cassetta dal nome Live Demonstration, dove comparve per la prima volta quello che sarebbe diventato poi lo storico logo degli Oasis, disegnato per l'occasione da Tony Finch. Dopo aver sentito questa cassetta, McGee rimase ancora più colpito dal potenziale della band e decise quindi di offrire al gruppo il loro primo contratto discografico appena 4 giorni dopo. A causa di problemi sorti nella stipula di un contratto valido negli Stati Uniti, gli Oasis finirono poi per firmare un contratto mondiale con la Sony, che a sua volta assegnò gli Oasis alla Creation Records per il Regno Unito. Noel disse di avere moltissime canzoni già pronte. Solamente tempo dopo sarebbe poi emersa la verità, ovvero quella che in quel momento gli Oasis avevano al massimo pronte solo una decina di canzoni. Ascoltiamo adesso il loro grande successo, Supersonic. I need to be myself. Can I ride with you in your BMW? ascoltato Supersonic degli Oasis, ospiti di questa puntata di Rock Revolution Story. Dunque, la prima canzone del gruppo che iniziò a circolare fu una demo di Columbia, la famosa White Label. Nell'aprile del 1994 uscirono invece i primi due singoli, Supersonic, che abbiamo ascoltato, e Shaker Maker. I due pezzi ebbero un discreto successo, guadagnandosi il passaggio nelle radio e entrando ufficialmente nella top 40 inglese. Ma fu con il terzo singolo, Live Forever, che gli Oasis iniziarono a farsi conoscere veramente, entrando per la prima volta nella top 10 dei singoli inglesi, alla posizione numero 10. Trascinato dal buon risultato dei singoli, il 30 agosto 1994 uscì l'album di debutto della band, Definitely Maybe, che andò direttamente a collocarsi alla prima posizione in classifica ed entrò nella storia come album di debutto capace di vendere più copie nel minor tempo. L'album ottenne anche il record di vendita inglese per album di debutto. Intanto i litigi e la vita turbolenta dei due fratelli divennero oggetto di attenzione da parte di Emilia. Durante la prima tournée del gruppo negli Stati Uniti, nel settembre 1994, durante un'esibizione a Los Angeles, Liam, sotto l'effetto di metanfetamina, si lasciò andare a commenti offensivi nei riguardi del pubblico statunitense e aggredì Noel con il tamburello. Quest'ultimo ne rimase talmente scosso da lasciare la band per volare a Las Vegas. Fu tra l'altro in questa occasione che scrisse la fantastica canzone Talk Tonight. La band rischiò quindi seriamente di sciogliersi, ma grazie alla mediazione di Tim Abbott della Creation, Noel fu convinto a tornare sui propri passi e si riappacificò ancora una volta con il fratello. Il tour poté così ripartire da Minneapolis. Ascoltiamo la canzone di cui abbiamo parlato poc'anzi, quindi Talk Tonight. Sitting on my own, chewing on a bone, 1,000,000,000 miles from home, when something hit me somewhere right between the eyes. Sleeping on a plane, you know you can't complain. You took your last chance once again. I landed stranded, hardly even knew your name. I wanna talk tonight until the morning light about how you saved my life. Rock Revolution Story su Radio One. Arriviamo al 10 ottobre 1994, stiamo parlando degli Oasis su Radio One all'interno di Rock Revolution Story. Uscì il quarto singolo estratto da Definitely Maybe, Cigarettes and Alcohol, mentre a Natale fu la volta di Whatever, che divenne il primo singolo del gruppo a raggiungere la top 5 delle classifiche britanniche, dove entrò direttamente al terzo posto. Quest'ultimo è inoltre l'unico singolo a non essere mai comparso in nessun album o raccolta della band. Nell'aprile del 1995 gli Oasis raggiunsero per la prima volta la vetta della classifica inglese con il singolo Some Might Say, uscito il 24 aprile. Cinque giorni prima il batterista Tony Carroll era stato escluso dal gruppo. McCarroll disse di essere stato cacciato ingiustamente per via di uno scontro personale con i fratelli Gallagher, ma Noel motivò l'allontanamento dicendo che Tony non sarebbe stato in grado di suonare la batteria nelle nuove canzoni. Al suo posto subentrò il londinese Alan White, fratello di Steve White, batterista del gruppo di Paul Weller. Alan debuttò alla batteria degli Oasis proprio durante un'esecuzione dal vivo di Some Might Say. In questo periodo la stampa inglese montò e amplificò una rivalità tra Oasis e Blur, altra band emergente nel panorama della musica inglese, in particolare del nuovo genere Britpop. A dire il vero, in un primo momento gli Oasis non si definivano come band del movimento Britpop e non furono invitati al programma Britpop Now della BBC, condotto tra l'altro dal cantante dei Blur, Damon Albarn. Un primo contatto tra i due gruppi si era già avuto nel corso di un'altra trasmissione condotta da Albarn, quando gli Oasis suonarono Whatever a The Top of the Pops, presentati proprio dal frontman del Bel Air. Durante la presentazione, Liam e Noel non risparmiarono gesti irriguardosi alle spalle di Albarn. Fu così che nacque quella che sarà considerata con espressione giornalistica la battaglia delle band, combattuta sul piano commerciale e mediatico. L'uscita di Roll With It, singolo degli Oasis, e di Country House, singolo del Blur, venne programmata lo stesso giorno, il 14 agosto 1995, alimentando così ancora di più la rivalità fra le band. Ascoltiamo la nostra prossima canzone in playlist degli US, Roll With It. Radio One. You gotta say what you say, don't let anyone Nel settembre dello stesso anno il bassista Paul McGuigan lasciò il gruppo per poco tempo a causa di un esaurimento nervoso, chissà per quale motivo. Durante questo periodo fu sostituito da Scott McLeod degli Ya-Ya's, che comparve anche in alcune esibizioni dal vivo, prima di andarsene bruscamente anche lui durante un tour del gruppo negli Stati Uniti. In seguito McLeod chiamò Noel Gallagher e gli riferì di sentire di aver preso la decisione sbagliata. Gallagher replicò seccamente: «Lo credo anch'io, buona fortuna quando ti presenti l'ufficio di collocamento». Per completare il tour fu arruolato nuovamente McGuigan, convinto di tornare a far parte della band. Intanto erano finite le registrazioni del secondo album, iniziate a maggio ai Rockfield Studios di Monmouth. What's the Story, Morning Glory uscì a ottobre e divenne subito un successo commerciale di proporzioni enormi. La band di Manchester ottenne così la rivincita sui Blur, dato che ad oggi il disco ha venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie e compare al terzo posto della classifica degli album più venduti di tutti i tempi. L'album, dal sound più melodico del precedente, contiene pezzi che hanno fatto la storia del gruppo e che hanno rappresentato un inno in una generazione. Il primo singolo ad essere stato estratto dopo l'uscita dell'album fu Wonderwall, che raggiunse la top 10 delle classifiche dei singoli americani e resta forse la canzone più famosa del gruppo, mentre il singolo successivo, Don't Look Back in Anger, fu quello più venduto del 1996. Ascoltiamo Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. The one that saves me. And after Pixies tennero i loro primi due concerti all'aperto come headliner al Main Road Football Ground di Manchester il 27 e 28 aprile 1996. Ma fu nell'estate dello stesso anno che il gruppo toccò il picco della fama, quando ben 250.000 persone assistettero al parco di Newborough a uno dei più grandi concerti all'aperto mai realizzati in Inghilterra. La frase pronunciata da Noel Gallagher all'inizio del concerto fu: this is history, right here, right now. La storia è qui, adesso, stiamo facendo la storia. Rimase celebre questa frase nei tempi. L'avvenimento consacrò gli Oasis come star internazionali, il loro successo era ormai all'apice. Il mese successivo si rivelò tuttavia difficile per la band, ma in realtà l'intero 1996 fu l'anno in cui lo scioglimento degli Oasis sembrò più che mai imminente. Il 23 agosto il gruppo registrò una nuova puntata di MTV Unplugged alla Royal Festival Hall, ma Liam diede forfè per mal di gola. Nonostante la defezione di Liam, presenziò ugualmente in sala e da un balcone assistette all'esibizione acustica del fratello con in mano sigarette e birra, ironizzando su di lui nelle pause tra un brano e l'altro. Di lì a 4 giorni la band sarebbe partita in tour per gli Stati Uniti, ma Liam si rifiutò di unirsi al resto del gruppo, che decise di recarsi ugualmente oltreoceano, continuando il tour con Noel come cantante. Liam, che aveva lasciato gli Stati Uniti dicendo di voler cercare casa, raggiunse poi i suoi compagni il 29 agosto, ma poche settimane più tardi fu Noel a tornare a casa senza la band stavolta, la quale lo raggiunse poi con un altro volo. Sull'episodio si concentrarono le speculazioni dei media, che ipotizzarono lo scioglimento del gruppo, ma la riconciliazione tra i due fratelli non si fece attendere. Così la band riprese il tour regolarmente, ma a settembre tra Noel e Liam scoppiò a Charlotte una nuova lite, in seguito alla quale Noel decise di abbandonare il resto della band e tornare in Inghilterra, mettendo nuovamente a repentaglio il futuro del gruppo. La casa discografica cancellò i restanti 4 concerti degli Oasis negli Stati Uniti, espresse dubbi sulla prosecuzione del tour europeo e tentò di minimizzare l'accaduto. Secondo i media britannici, alla base dell'episodio e del dissidio ci sarebbero stati contrasti mai sopiti tra Noel e Patsy Kensington, la loro compagna di Liam, chiamata Yoko da Noel, che paragonò insomma la sua influenza a quella negativa che Yoko Ono ebbe sui Beatles. E in più ci fu anche una questione di denaro: infatti Noel, grazie ai diritti d'autore, guadagnava circa 15 milioni di sterline all'anno contro i 2 milioni e mezzo degli altri componenti della band. Ascoltiamo Don't Look Back in Anger. Slip inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime. Dal novembre 1996 al marzo 1997 gli Oasis si riunirono per registrare il terzo album, Be Here Now. Il disco, che uscì il 21 agosto del 97, fu anticipato dal singolo Do You Know What I Mean, lungo brano dalle numerose influenze elettroniche ispirato da Setting Sun, canzone frutto della collaborazione di Noel con i Chemical Brothers e forse unico nel repertorio della band. La canzone raggiunse subito la prima posizione nella classifica dei singoli mondiali. Fu probabilmente questo l'album più atteso nella storia del gruppo e come tale divenne oggetto di particolare attenzione da parte dei media e del pubblico. Grazie all'incessante attesa e all'enorme pressione della stampa, il disco si piazzò direttamente al primo posto nelle classifiche di vendita britanniche e diventò l'album venduto più velocemente di sempre nel Regno Unito ed ottenne molto successo di vendite anche negli Stati Uniti, dove tra l'altro riuscì a piazzarsi al secondo posto delle classifiche di vendita per quello che ancora oggi è il miglior piazzamento raggiunto dagli Oasis in una classifica degli Stati Uniti. Sebbene le prime recensioni fossero molto positive, una volta spentosi l'entusiasmo generale per l'uscita di questo nuovo disco, l'album iniziò a ricevere critiche molto pesanti. Le maggiori accuse si indirizzarono verso la scarsa originalità del disco, secondo alcuni ai limiti del plagio. Infatti Do You Know What I Mean, per esempio, è costruito sui medesimi accordi di Wonderwall. Altro oggetto di critica fu l'eccessiva lunghezza di molti brani dell'album. Il CD infatti dura più di 70 minuti ed è il più lungo della storia discografica degli Oasis. Negli anni successivi l'album fu comunque almeno in parte rivalutato, anche se lo stesso Noel Gallagher considera questo il lavoro peggiore del gruppo. Ascoltiamo adesso Don't Go Away. Yeah. Stiamo ripercorrendo la biografia degli Oasis all'interno di questa puntata di Rock Revolution Story e arriviamo al Be Here Now Tour, tour conclusosi con una disastrosa tournée negli Stati Uniti, dove avvenne l'ennesimo litigio tra Liam e Noel. In quel periodo alcune dichiarazioni di Noel avevano alimentato nuove voci su un eventuale scioglimento della band, ma ancora una volta la Creation Records smentì le illazioni. La band rimase lontano dagli studi fino al 1999, anno in cui il gruppo affrontò forse il suo periodo più duro. Durante le registrazioni del nuovo album Standing on the Shoulder of Giants, il chitarrista Bonehead decise di lasciare il gruppo. All'epoca l'abbandono fu descritto come amichevole. Noel dichiarò che Arthurs intendeva trascorrere più tempo accanto alla propria famiglia, mentre lo stesso Arthurs chiarì la sua scelta dicendo di volersi concentrare su altre cose. In seguito però Noel fornì versioni contraddittorie. Arthurs avrebbe violato la regola no drink or drugs, niente bibite e niente droghe, imposta da Noel in modo tale che Liam potesse cantare bene, e ne sarebbe poi da questo appunto nato un litigio. Due settimane dopo fu invece il bassista Paul McGuigan a lasciare la band per la seconda volta e definitiva volta. I fratelli Gallagher durante una conferenza stampa smentirono le voci di uno scioglimento e rassicurarono i fan dicendo: il futuro degli Oasis è certo, la storia e la gloria andranno avanti. Gli Oasis erano rimasti in tre, con il solo batterista Alan White al fianco dei fratelli Gallagher. In questo periodo di transizione Noel si vide dunque costretto a suonare da solo tutte le parti di chitarra e basso insieme al tecnico del suono Paul Stacey. La situazione rientrò alla fine dell'anno con l'ingresso alla chitarra di Colin Herscher. La band provò per un breve periodo con David Potts, che si defilò in breve tempo prima di lasciare il posto a Andy Bell, ex chitarrista, paroliere e cantante dei Ride e degli Hurricane No. 1. Il basso in questo momento era suonato sempre dalla stessa persona, che dovette tra l'altro imparare a suonarlo a modo Oasis, diciamo così. Intanto la Creation Records era scomparsa e così gli Oasis crearono un'etichetta propria, seppur affiliata alla Sony, la Big Brothers Recordings, nome ispirato al ruolo di Noel Gallagher nella band. Ascoltiamo adesso la canzone Go Let It Out. Ain't no illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Let it out. 28 febbraio 2000 uscì Standing on the Shoulders of Giants, album dal sound sperimentale decisamente lontano dallo stile originario che nella prima settimana registrò buone vendite. Dal disco furono estratti tre singoli, Gallery Route, Who Feels Love e Sunday Morning Call, tutti entrati nella top 5 dei singoli del Regno Unito. Sulla copertina del nuovo album non campeggiava più il logo storico del gruppo, bensì uno nuovo ideato dal neoentrato Game Archer, e per la prima volta in un disco degli Oasis comparve una canzone Little James scritta da Liam Gallagher. Nonostante un inizio promettente, la critica si dimostrò fredda nei confronti di questo disco, che rimane il meno venduto nella storia della band. In seguito all'uscita dell'album, la band avviò un tour mondiale, che si risolse però in un altro litigio tra Noel e Liam. Siamo nel maggio del 2000, gli Oasis alle prese con le prime date europee del tour furono costretti a cancellare la data del Barcellona perché Alan White aveva problemi al braccio e trascorsero la serata bevendo. Liam si lasciò andare, come al solito, ad un commento sprezzante nei confronti dell'allora moglie di Noel, Meg Matthews, e mise in dubbio la paternità della figlia Anais, provocando ovviamente una colluttazione a seguito del quale Noel decise di abbandonare nuovamente il gruppo. Liam diventò il leader della band, come chitarrista fu ingaggiato Matt Dighton, mentre Noel fu sostituito da Game Archer, normalmente chitarrista ritmico del gruppo, e il ruolo di Game fu svolto da Matt Dighton. Il sound degli Oasis, ovviamente con l'apporto di Dighton, si fece più punk. Dal tour venne tratto un album live, Familiar to Millions. Ascoltiamo adesso Sunday Morning Call degli Oasis. fine del 2000 gli Oasis tornarono in studio per la realizzazione del quinto album. L'album pubblicato nel luglio 2002 si chiama Head and Chemistry e a detta di Noel segna l'inizio di una nuova era per la band. Raggiunse la vetta delle classifiche britanniche e la posizione numero 23 negli Stati Uniti, anche se i commenti furono di tenore contrastante. Il suono ricorda ancora quello sperimentale di Standing on the Shoulders of Giants, ma è privo di ghirigori elettronici e risulta più vicino all'anima rock delle origini. Da Head and Chemistry furono estratti quattro singoli: The Hindu Times, Stop Crying Your Heart Out, che divenne uno dei singoli più venduti dell'anno e fu paragonato anche a Don't Look Back in Anger per la sua carica di incoraggiamento. Poi ci fu Little by Little e Songbird, breve ballata acustica, prima canzone scritta da Liam e dedicata alla compagna Nicole Appleton. In seguito all'uscita dell'album nel 2002, la band avviò un nuovo tour mondiale, durante il quale Liam Gallagher, Alan White e altri tre membri dell'entourage furono coinvolti in una brutta rissa in un hotel di Monaco di Baviera con un gruppo di 5 italiani. Gli Oasis furono costretti a cancellare 4 concerti in terra tedesca, ma li recuperarono poi nell'aprile 2003, terminando in tal modo il loro tour. Ascoltiamo degli Oasis adesso Stop Crying Your Heart Out. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Arriviamo alla fine di dicembre del 2003 e gli Oasis cominciano le registrazioni per il sesto album presso i Sawmill Studios in Cornovaglia. Il disco fu prodotto per le prime 3-4 settimane dai Death in Vegas. Originariamente prevista per settembre 2004, in modo da coincidere con il decimo anniversario del lancio di Dead Definitely Maybe, l'uscita dell'album fu posticipata a causa dell'abbandono del tastierista Alan White, il quale si fece da parte ai primi di gennaio dopo quasi 9 anni di militanza negli Oasis. A proposito della defezione, il fratello Steve White avrebbe dichiarato sul proprio sito web che ad Alan era venuto meno lo spirito che caratterizzava i membri di una band, che desiderava trascorrere più tempo con la sua fidanzata. Per la lavorazione dell'album venne assunto provvisoriamente Zach Starkey, batterista degli Who e figlio di Richard, meglio noto come Ringo Starr, batterista dei Beatles. Il 30 maggio 2005 uscì il nuovo album Don't Believe the Truth, il primo dopo 3 anni. Come già accaduto per Head & Chemistry, alla realizzazione delle nuove canzoni collaborarono tutti i membri della band, tranne Zach Starkey, peraltro al debutto discografico con gli Oasis. Il disco riscosse subito un notevole successo, entrando come i precedenti 5 del gruppo al primo posto nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito. I primi 2 singoli, Lila e The Importance of Being Idle, raggiunsero la prima posizione in classifica. Ascoltiamo la fantastica Lila. Calling all the stars to fall and catch the silver sunlight in your hands. Come for me, set me free, lift me up and take me where I stand. She believes in everything and everyone, and you and yours and mine. I waited Verso la fine del 2005 iniziarono a trapelare delle notizie sulla pubblicazione di una raccolta di greatest hits della band da parte della Sony contro il parere di Noel, che in più occasioni si è detto contrario alla pubblicazione di una raccolta di greatest hits a meno che il gruppo non si fosse sciolto. In un'intervista del 2005 Noel fece capire che la Sony stava pensando di pubblicare ugualmente la raccolta e che, pur essendo in disaccordo, avrebbe accettato la decisione. Nel settembre 2006 Noel confermò alla Sony l'intenzione degli Oasis di risolvere il contratto discografico. La casa discografica aveva in qualche modo imposto alla band di pubblicare un greatest hits. Il 20 novembre 2006 uscì così Stop the Clocks, con 18 brani tratti da Definitely Maybe, What's the Story Morning Glory e Standing on the Shoulders of Giants, oltre ad alcune vecchie B-side. I brani furono scelti dal stesso Noel e racchiusi in due CD. Contro ogni previsione, il Best riscosse un grande successo, vendendo 3 milioni di copie nel mondo nonostante mancassero inediti e fossero stati esclusi tutti i brani dell'album Be Here Now. Ascoltiamo adesso The Importance of Being Idle. Rock Revolution Story. Time. 14 febbraio del 2007 gli Oasis furono premiati a Brit Awards con il prestigioso premio Outstanding Achievement per il contributo dato alla musica. A ottobre fu la volta dell'unico rilascio nel solo formato digitale di una canzone degli Oasis. Si trattò di Lord Don't Slow Me Down, brano contenuto anche nell'omonimo DVD sopra citato e che esordì al decimo posto nelle classifiche del Regno Unito. Il recupero di popolarità degli Oasis fu confermato da un sondaggio condotto nel febbraio 2008 dalle riviste Q e HMV per decretare i 50 migliori album britannici degli ultimi 50 anni. Due dischi degli Oasis, Definitely Maybe e What's the Story Morning Glory, furono inseriti rispettivamente al primo e al secondo posto. Nel maggio 2008 fu reso noto che Zach Starkey non avrebbe partecipato al tour successivo all'uscita del nuovo disco degli Oasis. Il sostituto di Starkey è Chris Sharrock, noto al pubblico per essere stato il batterista di Robbie Williams, ma non è membro ufficiale, quindi gli Oasis continuano ad essere quattro. Nel giugno 2008 la band firma un nuovo contratto con la Sony per la produzione di tre album. Gli Oasis a questo punto si erano riuniti negli studi di registrazione da luglio a settembre del 2007, ultimando due nuove canzoni e le demo del resto dell'album. Interrotte le registrazioni per un paio di mesi per via della nascita di Donovan, figlio di Noel, il gruppo tornò in studio il 5 novembre 2007 e finì finalmente le registrazioni con il produttore Dave Serdi. Ascoltiamo adesso Lord Don't Slow Me Down. Ripercorrendo la biografia degli Oasis all'interno di questa puntata di Rock Revolution Story, arriviamo adesso al 3 ottobre 2008, anno in cui esce in Italia il nuovo album Dig Out Your Soul, titolo tratto da un verso della canzone To Be Where There's Life, scritta da Gam Archer. Noel Gallagher ha dichiarato che questo album non è un disco Britpop, ma un disco dal sound più sperimentale. L'album ha subito riscosso notevole successo, piazzandosi al primo posto in Italia, nel Regno Unito e nel mondo per numero di vendite. Dal 1997 con Be Here Now, gli Oasis non raggiungevano una posizione così alta negli Stati Uniti, sebbene le vendite della prima settimana siano inferiori a quelle di Don't Believe the Truth. Ciò nonostante, con I'm Out of Time, secondo singolo, non è andato oltre la 12ª posizione nel Regno Unito, interrompendo una serie di singoli degli Oasis giunti tutti in vetta alla classifica, da Supersonic in poi. Insieme a Dig Out Your Soul sono tornati nelle classifiche britanniche degli album più venduti anche la raccolta Stop the Clocks e l'album del 1995 What the Story Morning Glory, che si stima abbia venduto 18 milioni di copie nel mondo, consolidando la propria posizione di disco fondamentale nella scena rock di tutti i tempi. Ascoltiamo adesso degli Oasis, I'm Out of Time. Rock Revolution Story su Radio One. Thank you. 28 agosto 2009, a seguito di una lite avvenuta tra i fratelli Gallagher nel backstage, il manager della band annuncia la cancellazione del concerto Rock Insane Festival nei pressi di Parigi, proprio pochi minuti prima del suo inizio, oltre alla cancellazione di altre due date restanti del tour europeo, una a Milano e l'altra a Costanza, facendo riferimento ad una imminente dichiarazione di Noel Gallagher poco prima di mezzanotte. Infatti comparve sul suo sito la dichiarazione che avrebbe deciso di abbandonare gli Oasis. Nell'ottobre 2009, in un'intervista al Times, Liam Gallagher dichiarò: gli Oasis non esistono più, penso lo abbiano capito tutti, è finita. Il cantante alluse poi alla probabile carriera da solista del fratello. Ai primi di dicembre rivelò di aver già composto alcune canzoni con Gam Archer, Andy Bell, tornato tra l'altro a suonare la chitarra, Chris Sharrock e Jay Darlington, il nuovo bassista, con i quali si riunì in studio per registrare nel gennaio del 2010. Non escluse l'eventualità di proseguire con il nome Oasis, anche se l'idea non si concretizzò. La querela tra i fratelli Gallagher proseguì poi nel luglio 2011, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Noel alla presentazione del suo nuovo progetto solista all'Electric Cinema di Londra. Noel disse di aver lasciato la band perché ne aveva abbastanza di Liam e sostenne che il concerto del 23 agosto al Quinto Festival era stato annullato perché Liam non aveva la laringite, ma perché Liam era troppo ubriaco per salire sul palco e cantare. Il maggiore dei Gallagher aggiunse: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'insistenza di Liam nel voler pubblicare la sua nuova linea di abbigliamento alla Pitty Green nel programma del tour degli Oasis, cosa che io non approvavo. Liam Gallagher replicò alle accuse minacciando di adire le vie legali contro Noel, tacciato di falsità e invitato a porgere delle scuse ufficiali. Insomma, continuano a darsi battaglia i due fratelli. Ascoltiamo Falling Down. 29 aprile 2020 Noel ha annunciato l'uscita di Don't Stop, nuovo singolo a nome Oasis, risalente a vari anni prima, pubblicato a mezzanotte dello stesso giorno. Bene, gli Oasis sono uno dei gruppi più noti e di successo del rock e del Britpop, genere cui figurano tra i pionieri. Hanno venduto circa 65 milioni di dischi in tutto il mondo, hanno piazzato 8 singoli al primo posto nel Regno Unito, 22 singoli consecutivi nella top 10 inglese e raccolto 15 NME Awards, 5 Brit Awards, 9 Q Awards e 4 MTV Europe Awards. Sono una delle band più titolate e seguite dagli anni 90 ad oggi. Rock Revolution Story si conclude adesso, vi ringrazio per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Bye bye! Nei sottoborghi dentro la città un suono vibra, arriva fino a Radio One. Alza il volume quando c'è brancato, chiariti forte, niente programmato. Rock Revolution, la radio trema, la musica arriva.